e più prezioso ci sei tu. Ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Del mondo ci sei tu. Ci sei tu. Sei tu. Ci sei tu. Ah.